Dico, sai com'è? Mi sono grimato un tubo, un arghile e un calumè e sono rimasto black. Come tipo me alla cash, zero stress. Procedo lacrima di tutti gli strumenti, faccio un check. Non ve ne è. E qui con me c'è Snap e te lo pa, SSO adesso.